soy yo. Viene lento divagar una música brutal, encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Una delle più classiche lamentele che si sentono, a piena ragione naturalmente, ai microfoni di questa radio è il problema del lavoro. Non vogliamo qui questa mattina risolvere il problema del lavoro a nessuno, non abbiamo gli strumenti, non abbiamo assolutamente la maniera per poterlo fare. Possiamo darvi delle vie alternative, delle scorciatoie, o perlomeno delle maniere per impiegare proficuamente il vostro tempo mentre vi macerate, vi fustigate e vi sbattete la testa sul muro. Non immaginate come possa essere possibile che la società, il mondo del lavoro, il meccanismo della produzione non si renda conto che voi esistiate, non si renda conto delle vostre specchiate qualità, non si renda conto dei vostri talenti. Ma probabilmente se non se ne rende conto è anche perché voi non avete sufficiente fantasia nel proporvi. Lo so, potrebbe sembrare un palliativo, dice vienci te a mettere insieme il pranzo con la cena nel mio habitat, nel mio quartiere, nella mia città, guarda com'è difficile, che fantasia, cosa ti vuoi inventare? Vorrei un tranquillo posto di lavoro in cui entrare la mattina, farmi lavorare, tornare a casa tranquillo o tranquilla e non avere più problemi. Beh, questo diamo per scontato che non sta a noi dirvi come si fa, se si fa, se si può fare, se è ancora qualcosa a cui si può ambire. Poi esistono, come ho già detto, delle forme alternative per riuscire ad entrare nel mondo del lavoro. Le formule che vediamo questa mattina sono formule che potrebbero apparentemente sembrare balzane, sembrare semplicemente dei palliativi. Una volta facemmo una fortunata trasmissione in cui una nostra collega inglese dava dei nomi altisonanti esotici a lavori infami come lo sturatore di pozzi neri, il derattizzatore e via dicendo. Era allora sì veramente un effetto placebo, tornavano a casa contenti perché il lavoro di cui si vergognavano comunque poteva avere un nome presentabile in società. Oggi è diverso il passo. Oggi vi proponiamo un manualetto dedicato all'invenzione del lavoro, scritto da una simpatica collega che per lunghi anni si è applicata nel rispondere proprio a persone che si lamentavano dicendo che non trovano lavoro. La collega è Manuela Longo. Manuela Longo, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Ha scritto Mi invento un lavoro, guida alle nuove professioni, editore Morellini. Entriamo subito nel vivo e facciamo capire, attento allo sbattimento di braccialetto sul tavolo, che è una fattispecie sonora in cui cadono molte delle nostre ospiti. Io ti propongo un lavoro nella sua declinazione tradizionale, potrebbe sembrare un lavoro infamante, per almeno un lavoro umile, un lavoro di ripiego, un lavoro che nessuno più vuol fare. È una persona che si occupa della casa, riordina la casa, mette in ordine gli oggetti, fa in modo che la casa sia sempre a posto e sia in armonia con il proprio proprietario. Potreste pensare, ma per fare la colf non c'è bisogno che io legga il vostro manuale. Ma esattamente che lavoro è questo? Allora, intanto io lo definirei il declutterer ed è così che lo definisco nel libro, perché colf è effettivamente riduttivo, nel senso che una colf entra nelle nostre case, fa quelle 4 o 5 cose che sono praticamente le stesse tutte le mattine, che possono essere fare i letti piuttosto che passare l'aspirapolvere, e lo fa soprattutto in una casa che è già in qualche modo ben attrezzata. E lo fa soprattutto con quello sguardo di rassegnazione sugli occhi, uno per dire oggi tu sei lì ma domani potrei essere io al posto tuo. Invece il declutterer che tu hai appena esemplificato ha una fattispecie fantastica. Si occupa di ridare forma e armonia agli spazi, togliendo gli ingombri e organizzando gli oggetti in modo che questi possano essere trovati facilmente da tutte le persone che vivono e lavorano in uno stesso ambiente. Cominciamo a entrare nel vivo di quello che vi stiamo proponendo. 800240024. Voi cominciate ad elencare quelle che sono le vostre particolarità, i vostri talenti, quello che vi piacerebbe fare, quello che vi riesce di fare bene, e vediamo questa mattina con Manuela Longo, che è una consulente meravigliosa per inventarsi il lavoro, di capire se esiste una possibilità di mettere a frutto le vostre capacità. Ma ritorniamo sul declutterer. Le differenze sostanziali con una colf sono che innanzitutto è una professionalità che si presenterà in maniera diversa. Un aspirante declutterer come si propone? Allora, un aspirante declutterer intanto indubbiamente ha delle capacità di riorganizzazione dello spazio che non possono essere discusse, insomma, quindi indubbiamente può essere anche una casalinga, però va detto che il declutterer si muove con una sua filosofia, ovvero nel momento in cui organizza lo spazio non lo fa semplicemente perché possa essere frequentato o comunque vi possa lavorare una persona sola, ma lo fa perché tutte le persone che agiranno che possano agire all'interno di questo spazio vi si trovino a loro agio anche il giorno immediatamente dopo essere arrivate. Ad esempio, nel momento in cui un'azienda si trasferisce in un nuovo studio, entra un declutterer, mette in ordine, e tutte le persone che poi vanno a lavorare in questi ambienti devono sapere immediatamente dove cercare quello di cui hanno bisogno. Ecco, ma esiste una sorta di albo dei declutterer? Come fa a proporsi o come fa a assumere gli strumenti base della professione un aspirante declutterer? Allora Gianluca, intanto voglio premettere che non esiste una sorta di albo per nessuna delle professioni che ho citato, altrimenti non sarebbero professioni nuove e soprattutto non sarebbero professioni emergenti, quindi ci auguriamo che possa esistere un domani un albo per tutte queste. Come ci si propone? Allora, innanzitutto si può iniziare dalla formazione, che può essere seguire dei corsi specifici come quelli di Feng Shui o di Space Clearing, che servono proprio per capire che cosa si intende per creare un ambiente armonico. Diciamo una affonda le radici nella filosofia giapponese orientale, dare armonia agli spazi. Dare armonia agli spazi, esatto. Cosa significa stare bene in un certo spazio? Quindi immagino orientamento, incensi, profumi, materiali naturali. Illuminazione, piuttosto che anche proprio come disporre i mobili in modo tale che siano effettivamente godibili da tutte le loro angolazioni. Ti faccio un esempio. Dunque, una sera sono stato a cena da una mia carissima amica. Stavo in una casa a cui lei dava un significato diverso a quello che do io alla casa, aveva tutti i lampadari con la luce che veniva dall'alto e mi sono sentito male, gli ho chiesto la cortesia, sono andato in camera a letto, gli ho preso l'abat-jour, l'unica luce che potevo mettere bassa, ho spento le luci, ho messo questa piccola abat-jourina in salotto, okay. E l'ambiente per me era nuovamente tornato a mia misura. Era tornato a tua misura. Quindi ho la vena del declutter. Ma queste, vabbè, le esigenze personali. Non avevo incensi profumati, non avevo luci dentro il sale, queste cose qua che di solito si usano. Il declutterer fa di più, in un certo senso, partendo proprio da questa tua sensazione. Il declutterer si mette un pochino nei panni di tante persone, cioè di quello che può essere il sentimento oggettivo, l'emozione oggettiva che si può venire, se passatemi questa espressione, che possono trovare tante persone che usufruiscono di uno stesso sentiamo, spazio. Sentiamo Roberto, il primo ascoltatore che deve porci un quesito sulla nuova professione che potrebbe fare. Dai Roberto. Buongiorno. Che hai inventato? Buongiorno a tutti. Io ho inventato una cosa che penso possa essere utile alla maggior parte delle persone che magari non hanno un lavoro ma hanno quantomeno un computer e una connessione ad internet. Ho inventato un sito web che consente a chiunque che ha una qualsiasi cosa da poter insegnare a chiunque altro, gli permette di connettersi a questo sito e tramite webcam di creare proprio delle vere e proprie aule dove chi si connette in quest'aula e può usufruire, diciamo, dell'insegnamento via webcam in diretta di questa persona paga quanto questa persona decide. Ma qual è la differenza con le webcam girl, con questi sistemi di esposizione? Perché di solito c'è qualcuno che certifica la qualità dell'insegnamento, sei te che ti prendi questa responsabilità? Beh, sicuramente sì, ci sarà un controllo, ovviamente il controllo non può essere mai certificato al 100% perché non esiste una capillarità di un controllo tale, soprattutto quando si connettono una moltitudine di persone. Sicuramente il controllo ci sarà, il sito non è assolutamente indicato per chi vuole fare pornografia o cose di questo genere, ma è proprio pensato per coloro che vogliono inventare una professione e guadagnare soldi veri. Manuela Longo, questo web teacher teacher secondo te è una strada da percorrere? Web teacher. Allora, mi fa la descrizione di Roberto mi fa pensare appunto alle tante aule virtuali che già sfruttano moltissime aziende appunto per fare delle riunioni online. Sì, mi sembra un po' vago dire qualunque cosa, bisognerebbe forse dargli uno specifico un pochino più preciso. Per quanto riguarda la... La docenza. Sì, ma io invece penso che in realtà ci può anche stare che si crei sul web uno spazio che sia a disposizione dell'associazione di psicologi piuttosto che dei declutterer che vogliono incontrarsi. Non è tanto quello. È soprattutto una questione di innanzitutto di mentalizzare le persone ad incontrarsi sul web per parlare di lavoro. Questo intanto è secondo me una difficoltà che si incontra proprio in generale. E poi promuoversi, farsi conoscere. Io non so se Roberto ha già pensato a quelle che possano essere, i veicoli per dire sì, ci siamo anche noi e c'è anche questo web, questo spazio web che potete sfruttare. Diciamo che il sito prevede diciamo che si chiama My Global Desktop ed è praticamente un desktop condiviso che permette alla gente di lavorare, di utilizzarlo proprio come un ah, quindi un è già cominciato a fare questo lavoro? Non ho capito. Hai già cominciato? Sì, è già in linea e la promozione inizierà a breve. È cominciata questa mattina qua, sei un paraculo, dai. diciamo che è in fase di startup in questi giorni, sì. Quindi ho avuto l'occasione, grazie a voi, di poterlo dire a tante persone. Ma non è bello e mi auguro che venga utilizzato, perché è un sistema completamente gratuito per chi ne vuole far uso. Bene, allora, dal momento che Roberto ci ha chiamato, volevo anche dire che posso se vuoi, Roberto, darti un suggerimento. Anche due. Allora, guarda, io direi che nel momento in cui hai iniziato a descrivere questa tua attività, subito mi sono venute in mente tutte quelle che società che si avvalgono di venditori, queste appunto reti di agenti che vanno praticamente per tutta l'Italia a vendere prodotti o piuttosto servizi. Ecco, per loro secondo me potrebbe essere davvero interessante, piuttosto che fare delle riunioni in famiglia, in case, incontrarsi appunto sul web e connettersi da tutte le parti d'Italia. Credo che sia molto più facile che non dire appuntamento a Roma il giorno martedì 10, dovendo far incontrare le difficoltà di molti, invece incontrarsi sul web. Scusami, Manuela Longo, vedo nel tuo libro però che esiste già l'ufficio virtuale come una delle possibilità di lavoro. Sì. È questo esattamente questo? È molto simile all'idea di Roberto. Sì, direi che... Come funziona? Allora, l'ufficio virtuale... Ce ne sono molti, io vedo, guarda, adesso si comincia a vedere, io ho bisogno di un luogo a Napoli per vedere 10 persone, non è così facile, dove vado in un albergo, okay. Ti affittano tutto. Io ti dico la verità, quando ne ho parlato facevo riferimento ad un ufficio in tanto reale che fosse praticamente un ufficio a ore, è un po' come un internet point dove tu hai anche già a disposizione... Già esistono, ce ne stanno di queste esatto, cose. Ce ne stanno ed io ho raccolto questa idea proprio perché poteva essere anche un ufficio dove non incontro delle persone, ma è veramente il mio ufficio. Quindi io vado, lavoro e prendo appuntamento con te che vuoi semplicemente parlare con me. Non e è che, semplicemente. E che servizi mi mette a disposizione? Mi mette a disposizione un PC, mi mette a disposizione un telefono, un numero di fax, un collegamento ad internet. Una sala riunioni, ma anche un videoproiettore. E poi naturalmente tutto dipende da quello che vado a fare. Però la cosa interessante, quando io ho postato sul blog questo lavoro, non era tanto il fatto che potessi fare delle riunioni, perché tranquillamente affitto una location e faccio una riunione, quanto che ci possa andare a lavorare dalle 8 alle 17 anche per conto mio e ricevere un cliente senza mi sembra questo... ufficio ore mi sembra la definizione più esatta perché è veramente molto italiano. Andiamo avanti con le tue proposte di nuove professioni. Il personal chef. Quante volte hai rinunciato a una pizza o a una cena romantica perché non ti andava di telefonare per prenotare due posti? Ebbene, per questo è nato il personal chef. Però, se pensi di farlo solo perché puoi sembrare di essere un'ottima cuoca e gli amici si complimenteranno con te per i manicaretti che prepari, ti sbagli. Manuela Longo, sì. Anche questo, come facciamo a distinguerlo come da un cuoco che si chiama a casa quando uno deve fare un ricevimento? Allora, un cuoco che si chiama a casa quando uno deve fare un ricevimento è una traduzione italiana del personal chef, quindi non abbiamo esigenza di distinguerlo. Il personal chef è un cuoco, una persona che viene a casa, ma può venire a casa anche per... per due persone soltanto, e viene a preparare una cenetta, che dopo naturalmente aver avviato il lavoro in un locale che deve naturalmente essere un locale in regola per quanto riguarda tutti quanti i sistemi di sicurezza, e poi deve aver fatto anche la spesa. Quindi una persona che nell'arco di un paio d'ore mi allestisce il tavolo ed io posso tranquillamente sedermi e cenare, e a volte serve anche la cena. In realtà il personal chef, ti dirò Gianluca, che è già una professione ben avviata in Italia, esiste un'associazione, si lavora molto, da quello che mi hanno raccontato, soprattutto durante il periodo delle feste, quindi il Natale è sicuramente quello ideale, e questo perché? Perché andare al ristorante costa sempre di più, e perché c'è una nicchia elitaria di persone che sta cominciando a gradire l'idea di poter regalare tra virgolette una cena alla propria moglie in una giornata in cui non mi fai capire bene. Dunque, tu metti nel tuo libro, dice, non è sufficiente che voi sappiate cucinare bene, vi dico tutti quanto sei brava in cucina, ci vuole qualcosa di più. Cioè, entra, risolve il problema, se ne va e lascia tutto come ha trovato, cioè, allora, pulisce no, anche. Allora, no, questo è fondamentale. Assolutamente fondamentale. Non è sufficiente cucinare bene, perché è importante anche, intanto, essere molto rapidi, molto veloci nel non fare puzze per casa, che è una cosa orribile. Non fare puzze per casa, quindi capire quello che è il lavoro che va fatto prima e soprattutto va fatto in un altro posto. Pulire, essere molto discreto, perché ricordiamoci che è una persona che deve entrare in casa mia anche se io non ci sono, e quindi qualcuno gli apre, si spera, e comunque deve utilizzare le mie cose, deve aprire i miei cassetti, anche perché la cena potrebbe avere anche dei risvolti molto personali, lui far finta di nulla. Vabbè, in questo caso forse dopo cena può anche dopo aver servito il bicchierino della staffa può andarsene, sì, può andarsene in punta tranquillamente dei piedi, senza che qualcuno gli faccia cenno. Ecco, ma questa è una professione che mi sembra abbastanza semplice per una persona che abbia buon senso e qualche strumento di arte di gestione della cucina abbastanza raffinata. È vero, avanzata. Gianluca, che in queste professioni fa la differenza il fatto anche di essere un po' specializzati, cioè quindi comunque proporre una cucina che non è esattamente, cioè, non è la bistecca. Non è che gli fai i maccheroni, ecco, certo. Ok, quindi magari mi può venire in mente di chiamare un personal chef se mi fa una cucina particolarmente elegante, piuttosto che cucina che non. Quanto cuisine ci costa una serata media con il personal chef? Non tantissimo, sai. Può arrivare a veramente costi di una qualsiasi cena ristorante, una trentina di euro a persona. Così poco, tutto compreso, spesa compresa? Sì. Sì. Beh, è conveniente, uno perché dovrebbe andarsi a rovinare il fegato a fare la fila in un ristorante. Ma perché gli italiani siamo un po' resti a far entrare gente in casa, essenzialmente per questo. Questo è il problema, noi non diamo le chiavi. Sì, questo è un po' il sentiamo Paolo. Paolo, buongiorno. Buongiorno. Senta, io volevo fare un'osservazione un po' così generale su questi. Io sono un pochino allibito da tutto quello che sta dicendo. Prima di lei tutto, si allibisce molto facilmente. Molto facilmente. No, prima di tutto l'uso dell'inglese. Ogni professione di questa ha questo uso dell'inglese, che secondo me è un po' lontano dalla nostra cultura. Cioè, questo è un male, però, non è un bene. Beh, è un male ed è un bene, nel senso che va bene la globalizzazione, però va bene anche avere un pochino le nostre radici. Cioè, io le parlo per esempio, la mia nonna frequentava la scuola di economia, che era una cosa che aveva istituito il regime di allora. Sì, sì, era diciamo il laboratorio in cui costruivano le brave mogli, le sane madri di famiglia che se ne stanno sigillate in casa a occuparsi della famiglia. E i sani principi, cioè per esempio lei prima, un minuto fa, ha usato una parola che non si sente più, il buon senso. Che cos'è il buon senso? Come si coniuga il buon senso con tutti questi lavori che state, cioè il personal chef, ma io ho il piacere di cucinarmi anche due uova alla coc, ma per mia moglie. Lei si accontenta, io no, scusi, io se una sera invece di andarmi a affumicare in un ristorante pieno di gente sgradevole, di rumore, farmi vedere con chi voglio stare a cena, mi piacerebbe molto aver qualcuno che viene a casa mia, in silenzio mi prepara un'ottima cena, poi scompare lasciando tutto in ordine. Prego. Ma ecco, Paolo, scusami, ti interrompo un attimo. Ma sai che io ho raccolto il case history del cuoco che mi ha raccontato questa sua professione e mi ha detto che sono soprattutto gli uomini a contattarlo, persone che si rendono conto che spesso davvero queste donne gradiscono molto di più una sera che può essere quella di un compleanno, di un anniversario, in casa, nell'intimità, senza fare nulla, ma davvero togliersi le scarpe e mettersi comode, anziché un bracciale di perle. D'accordo. D'accordo, il concetto è l'equilibrio delle due cose, il concetto è per esempio anche rispetto al lavoro che facevate, dicevate prima, una persona che ti viene e ti organizza gli spazi, ma io all'interno poi di una comunità, quindi abbiamo magari 20 persone diverse, con 20 modi di vedere le cose diverse, questo arriva e organizza gli spazi. Quella è la complessità, è quella la professionalità, è difficile farlo. Sì, ma è una professionalità che vorrei vedere poi sul campo e capire, perché sa, le teorie sono molto belle. Però guarda, sa come funziona, io non difendo le nuove professioni, non me ne importa nulla, faccio una professione antica come il mondo, quindi figuriamoci, forse è una delle più vecchie del mondo. Però volevo dirle, è il mercato che poi definisce la qualità della prestazione, siccome nessuno obbliga di chiamare queste persone, se qualcuno le paga evidentemente il loro lavoro lo sanno fare, se rimane soltanto una velleità vanno a crescere l'esercito di coloro che sentono non compresi dalla società. Una riflessione, essendo padre di 3 figlie, facevo un'altra riflessione che era legata un po' a quel discorso del buonsenso, cioè io mi facevo la domanda, ma quanto ho insegnato io e le mie figlie per esempio a mettere in ordine, a organizzare gli spazi, perché un domani loro dovranno avere la propria casa e quindi essere capaci di organizzare loro i propri spazi all'interno della propria casa, gestire lo star bene all'interno della propria casa e trovare la soddisfazione di fare queste cose. Sono tutti concetti che nascono da un tipo di discorso educativo, di buonsenso, di principi. Ho capito, però usciamo fuori dal problema, questo è il problema di quali strumenti dare alle proprie figlie. Esistono vite abbastanza frenetiche che non ci danno il tempo nemmeno di mettere in pratica quello che sappiamo fare. Io sono perfettamente in grado di cucinarmi una cena, ma molte volte non ho tempo per farlo, per scusare meglio il mio tempo. Melog 2.0 House and Pet Sitter. Si occupa di badare alla casa e agli animali che vi si trovano all'interno quando il proprietario è assente. Può essere definito un vero e proprio babysitter degli appartamenti. In Italia, al contrario che all'estero, questa professione è del tutto sconosciuta, perché siamo restii a consegnare ad altri le chiavi del nostro nido. .800240024, siamo con Manuela Longo, autrice di Mi invento un lavoro, una guida alle nuove professioni, Morellini editore, e stavamo ragionando delle possibilità di inventarsi dei lavori e vediamo, come abbiamo già visto nel caso del personal chef, come vediamo nel caso del house pet sitter, che molte volte il vero problema è che gli italiani sono restii a considerare la propria abitazione come luogo di frequentazione da parte di estranei. Sì, Gianluca, c'è questa forma di pudore di casa propria. Di casa propria, e ne parlavamo anche proprio, ne parlo a proposito di questa professione dell'house sitting, proprio perché è l'unico gap forse che non permette ad alcune professioniste che potrebbero tranquillamente fare questa professione di far attecchire un'attività. Ecco esattamente di questo cosa genere. Cosa fa questo tipo? L'house sitter è una persona che praticamente si occupa della nostra casa in nostra assenza, quindi logicamente non la troveremo mai ad imbiancare le pareti di casa nel momento in cui rientriamo dalle vacanze, ma fa cose ordinarie, che possono essere annaffiare le piante, potare il giardino, mettere da mangiare al canarino, o anche entrare in casa nel momento in cui bisogna disattivare l'antifurto, o insomma cose veramente ordinarie, ritirare la posta, ascoltare messaggi in segreteria nel caso in cui siamo dei professionisti, anche semplicemente areggiare la casa, insomma veramente quello che farebbe si fa una mattina nell'arco di un'ora. Ma qual è il timore delle persone? Che possa rubare, che possa giacere in maniera impropria sul proprio talamo coniugale? Ma Gianluca, ma non ci stiamo raccontando nulla di nuovo, perché basta sentire parlare le persone a proposito di altri profili che sono invece molto comuni, come la badante della nonna piuttosto appunto della golf, e facilmente si sentirà di dire: non la chiamo perché non voglio che metta le mani nelle mie cose. Esattamente, perché, il problema degli anziani italiani è che i genitori non vogliono la badante, cioè no, un estraneo in casa. Ma guarda, io vengo da una famiglia in cui mia madre non voleva mai che portasse persone a casa, lo dico come fosse una sorta di liberatorio atto di autocoscienza. Ogni volta portavo qualcuno, cucinava il cavolfiore, mi rimpuzzava a casa in modo che mi passasse la voglia di portare gente a casa. Perché? Perché la casa non è in ordine, viene gente a casa, non si vede, come ci fossero dei segreti innominabili nelle case, esatto, che non bisogna mostrare le proprie miserie. Esatto. In realtà forse la funzione di questa persona è di evitare che la casa sia miserevole, cioè rimetterla in sesto anche. Sì, di evitare che magari si rientra a casa e si ha quella sensazione di chiuso, di non casa, che si trova quando si manca un mese o anche di più. Ecco, sentiamo degli ascoltatori, stanno cominciando a chiamare. Mirko, buongiorno. Sì, buongiorno. Io sono Mirko e volevo un attimo raccontarvi l'esperienza di un nuovo mestiere. Se l'ha inventato lei? Me lo sono inventato io, credo che sia abbastanza unico nel panorama. Ma ci riesce a vivere? Attualmente stiamo cominciando a viverci. La cosa curiosa è che io nel piccolo sono l'amico del pallone, quello che ti chiama, ti organizza la tua partita di calcetto o di altri sport. La cosa curiosa è che per farlo io ho messo in piedi una piattaforma e sono diventato l'amico del pallone di 10.000 persone. Vabbè, anche lei ha un lavoro legato al web, che mi sembrano delle maniere migliori per mettere in contatto le persone. Quindi lei organizza partite di calcetto o qualcosa anche di più elaborato? È molto più elaborato, perché in fondo io non le organizzo, ci sono persone che organizzano la partita e mettono sul sistema e trovano le altre 10 che gli servono. È un network, quindi? È proprio un piccolo Facebook che ha l'unico scopo di farti tirare su la partita. È un social network mirato al tempo libero e soprattutto alle partite di calcetto, non ci sono altre attività che vengono condivise? Soprattutto calcetto, ma è strutturato per gestire tutti gli altri sport e soprattutto anche gli altri test. Abbiamo anche un sacco di ragazze iscritte che giocano. Mm-hmm. Si è sviluppato Macchia d'Olio, parte da Milano. Ecco, il profitto da cosa viene? All'iscrizione a questo sistema? No, il servizio è completamente gratuito. E lei come fa a farci soldi sopra? Il profitto nasce naturalmente dalla collaborazione con i centri sportivi, i quali vedono che in molti modi riusciamo a coprire delle orari che loro non sono... E quindi vi danno in percentuale a ogni frequentazione o vi mettono degli spazi pubblicitari che vi pagano? Solo per capire il meccanismo poi di profitto. Ci sono delle forme di convenzioni con cui loro ci premiano a seconda del numero di partite che riusciamo a sistemare. Ecco, più gli fate traffico, più naturalmente vi remunero. A me mi sembra una buona idea. Anche a me sembra davvero una buona idea. Allora, Paola personal dresser. Buongiorno a tutti. Io ho anche un'esperienza di una nuova professione che faccio da oramai 4 anni. Io faccio la personal dresser, che è in italiano, come faceva come suggeriva l'ascoltatore di prima, significa sarto a domicilio. Quindi io entro nelle case o negli uffici delle persone, prendo le misure, faccio scegliere i tessuti e consegno l'abito dopo una prova. Quindi dato che oggi il tempo ha un grandissimo valore, le persone non perdono tempo e in più hanno modo di scegliere come vestirsi in tutta tranquillità in un ambiente a loro familiare senza dover perdere tempo, uscire. Ma è difficile mettere su una rete di personal dress, perché lo stesso problema che vale per chi non vuol fare entrare strani in casa, immagino per far entrare una persona in ufficio, in orario di ufficio, immagino un manager, perché l'impiegato sarà un po' più difficile che abbia tempo da dedicare in queste attività, chiama una persona nel momento in cui sta lavorando. Come funziona esattamente la presa delle misure e il contatto col cliente? Dovrebbe avere delle persone abbastanza specializzate, penso, in questo senso. Sì, la nostra difficoltà è aggiungere delle persone, proprio perché in realtà non c'è grande reticenza a farci entrare nelle case, perché ovviamente noi lavoriamo col passaparola e quindi abbiamo reputation, quindi abbiamo reputazione di essere persone discrete, di essere persone precise, di non invadere gli spazi privati. Molto spesso però i nostri clienti diventano amici professionali, a volte anche amici, con cui condividiamo anche, non so, li accompagniamo a comprare gioielli per la moglie, piuttosto che hanno comprato la macchina nuova, ci portano a fare un giro sulla macchina nuova, oppure ci chiedono consigli di stile anche per arredare la casa. La difficoltà è far capire alle persone che questa può essere veramente una bella professione. noi facciamo formazione ovviamente, i nostri sono tutti professionisti, noi abbiamo 10 persone che collaborano con noi. Manuela Longo, a fare una domanda all'ascoltatrice? No, Paola. Più che altro volevo sottolineare che questa forma di resistenza a far entrare gli estranei in casa è molto più legata al discorso casa in senso stretto, in mia assenza, che non a... In ufficio. No, che soprattutto che non a ciò che si riferisce alla mia persona, perché io sono lì, c'è la signora che mi prende le misure, guardo, osservo, sono presente, lei non tocca nulla, 10 minuti e se ne va. No, qua... In questo caso il personal dresser, mi sembra aver capito, il bello di questo servizio, ti vengono anche in ufficio, dovunque tu sia, in albergo. Ti vengono anche in ufficio, certo. Hanno, qui... diciamo, il database con le tue misure, l'importante è che ti scegli il tessuto, ti fai un ritocchino. Esatto, qui comunque c'è meno resistenza, un po' come si fa da secoli con le spose, no? Per cui si va in casa e le si pettina piuttosto che si prova il vestito. È una forma di coccola che esula un po' dal fatto di far entrare qualcuno di estraneo in casa. Sentiamo Sonia. Sonia, buongiorno. Buongiorno, io vorrei inventarmi un nuovo mestiere che sarebbe ordinatore delle librerie, classificatore dei libri. Vabbè, archivista? Non lo so, a domicilio. A mettere a posto... acquisto delle librerie se... Nel mio blog c'è Gianluca. Cosa fa esattamente? Il bibliotecnico. Il bibliotecnico, io l'ho chiamato così, ed è una persona che parte dall'inizio, cioè prima la progetta, e lo può fare anche addirittura nelle nuove biblioteche, quello che ho chiamato le nuove biblioteche, proprio perché appunto siano funzionali e possano essere catalogati anche CD, insomma, e tutto il materiale informatico che si può trovare ora, che si spera si trovi ora anche nelle biblioteche, e quindi, e poi passa appunto ad ordinare, a mettere in ordine quelli che sono i vari volumi e il materiale. E anche in un'abitazione dove sono molti libri e molti dischi, potrebbe rimetterli in ordine. Anche un'abitazione, anche questo è un lavoro che si può vendere molto bene alle aziende e agli uffici, dove spesso non c'è un criterio, dove spesso vi si muovono delle persone molto diverse fra di loro e che devono sapere subito dove cercare cosa. Melog 2.0 Home Stager. Quante volte sei passato davanti a una casa con su un cartello vendesi pensando che stava lì da mesi? Ebbene, i proprietari di questi immobili che languono negli elenchi delle agenzie non hanno avuto la brillante idea di rivolgersi a un home stager. È colui che valorizza le proprietà immobiliari, migliorandone l'immagine per favorirne la vendita o l'affitto alle migliori condizioni. Ecco Manuela Longo, le nostre città in cui gli agenti immobiliari come sciacalli stanno alla ricerca di vecchie moribonde e di appartamenti sfitti, serve veramente l'home stager? Sì, serve perché intanto il mercato immobiliare soffre moltissimo anche in Italia e perché all'estero è stato provato che l'intervento di un home stager ha fatto ridurre di molto i tempi di giacenza di un immobile. Cioè serve sia vendere che acquistare. Serve sia vendere che acquistare, serve soprattutto proporre l'immobile in maniera che sia appetibile per chi lo acquista. La verità è che, ed è stato appunto sondato all'estero, noi diciamo sempre quando usciamo da una casa che abbiamo appena visto ci penso, ma abbiamo già deciso nei primi 3 minuti se ci piace o no. Ed è su questi 3 minuti di passeggiata dentro l'appartamento che deve giocare l'home stager. E come lo fa? Lo fa praticamente sistemando questa casa con ciò che c'è dentro, quindi senza aggiungere null'altro, giocando quindi sulla disposizione dei mobili, sulla luce, sul fatto di spostare un mobile accanto a quella pezza di intonaco che viene via, giocando su fattori assolutamente di impatto ma comunque che non comportino ulteriori costi. Un po' lo sanno anche gli agenti immobiliari, ti fanno vedere le case sempre il pomeriggio, c'è la luce migliore, cercano sempre il punto luce adatto, non ti fanno mai venire quando c'è la tristezza del tramonto che illanguidisce, certo, tutto lo schifo della casa. Però l'home stager è soprattutto un designer, quindi comunque il suo intervento è un intervento che può anche restare a beneficio di chi acquista, perché non sempre poi dopo aver acquistato una casa si hanno anche i soldi per farvi entrare un architetto. Quindi davvero un home stager è una figura vantaggiosa per tutti. Andiamo avanti con un'altra figura. Il diet coach. Dimagrire non è solo fare una dieta, ma serve saper ascoltare il proprio corpo per capire di cosa abbia bisogno. Per questo c'è il diet coach. Non è un medico, né un nutrizionista, comunque non solo. È un trainer che insegna a recuperare un buon rapporto con il cibo e quindi a rimettersi in forma. Ecco, ne sentivamo proprio il bisogno. Cosa fa il diet coach che non potrebbe fare un medico, un dietologo, un amico di famiglia? Fa il coach, oltre che il diet, cioè fa l'allenatore, è il motivatore. Ok, io ti... Ma è presente quando si mangia? Io ti do una... È presente nelle... lo dici scherzando, è presente nelle prime fasi, è presente nel momento in cui ti svuota il frigorifero, piuttosto che nel momento in cui tu dici che cosa c'è nel tuo carrello in questo momento, di solito, e lui spesso ti accompagna anche a fare la spesa. Quindi veramente è un allenatore, cioè parte dal presupposto che tu abbia una dieta, che tu sia sicuro di doverla fare, ma che purtroppo hai delle abitudini sbagliate o semplicemente non sei motivato. O la tua carne motivata. È debole e non sempre non ce la sei fai. Motivata, esatto. Sentiamo Giuseppe. Giuseppe, buongiorno. Sì, buongiorno. Che sei inventato? Qualche anni fa ho portato dall'America, praticamente un'idea innovativa per l'Italia. Abbiamo messo insieme con mio nipote, che adesso si occupa dell'attività in prima persona, una serie di ristoranti. Quindi abbiamo creato un giornale sulla città di Latina, si chiama Mangia Tutto, dove riuniamo una serie di locali di varie tipologie, dall'indiano al cinese all'italiano e così via. Distribuiamo questo giornale con spedizioni e quindi il cliente, comodamente da casa o da un ufficio, può ordinare, scegliersi il locale con cui già ha avuto modo di... E portate il cibo a casa? E noi facciamo, sì, la consegna praticamente, effettuiamo la consegna. Sì, non è poi una cosa tanto nuova, diciamo. Beh, la comodità nuova per il posto è che non è una semplice consegna a domicilio, ma si dà una possibilità nuova al cliente di poter scegliere tra un ventaglio diverso di proposte. E quindi non ha un unico... Cosa significa che posso farmi portare a casa un primo giapponese ed un secondo indiano, piuttosto che... Oppure devo comunque scegliere... Per il momento chiaramente bisogna scegliere un locale, però si possono fare anche più ordini, sì. C'è un ordine minimo, quindi lo stesso cliente può ordinare da due locali con un minimo, seguendo un minimo d'ordine, e quindi prendere un primo italiano e un secondo giapponese o indiano. Vabbè, la consegna a domicilio, diciamo la verità, non è proprio tutta questa innovazione. Andiamo avanti. Jamal, che si è inventato? Allora, buongiorno a voi. Sì. Io sono inventato un lavoro, visto che sono in Italia dalla bellezza di 29 anni. Sì. E ho acquistato tanta fiducia della gente. Andiamo al lavoro, se no non fa in tempo a dirlo. Lavoravo in una ferramenta. E quando la gente veniva a chiedere dei piccoli interventi, ho detto, ma perché non dividere la ferramenta da questo tipo di lavori, di interventi? E così ho inventato una nuova professione che si chiama omino.it. E lei fa l'omino di casa? L'omino di casa, esatto. E cosa fa tutto? Cioè piccoli aggiustamenti? Attaccare un quadro, a sistemare la lavatrice. E funziona? Ci riesce? Anche questo l'ho trovato, il relooker. Si chiama relooker, però lo chiama omino. Sarebbe perfetto se lei riuscisse a fare anche appunto opere di tinteggiatura, piuttosto che insomma un pochino più creative, ecco. Dalle piccole cose alle grandi cose, perché io sono passato anche per la ristrutturazione, poi mi sono dedicato a questi lavori perché sinceramente si guadagna di più. E... Vabbè, fa un po' di... è l'omino, quello che una volta era il portiere, era il vicino di casa con il Black & Decker, insomma la persona che fa i lavoretti in casa. Signora Carla, cosa ha inventato di innovativo? Dunque, non io l'ho inventato, l'ho sentito e mi è sembrata un'idea geniale. La guardarobiera stagionale, quella che aiuta a fare, cioè quella che fa il cambio degli armadi alle stagioni, pulisce i vestiti, li ripara, li attacca i bottoni, cuce le fodere, questa cosa così. Bene, questo potrebbe essere invece una sezione che io ho analizzato nel profilo del personal concierge, cioè la vecchia figura del maggiordomo. C'è un maggiordomo moderno che quando è ora di fare il cambio degli armadi, invece che lasciare i vestiti invernali ad ammuffire come faccio io tutta l'estate e accorgersene soltanto a settembre, vanno portati in tintoria, lo fa in tempo giusto. Beh, le nuove professioni ve le abbiamo date una prima sventagliata, ce ne sono un'infinità, ripeto il titolo del libro, Mi invento un lavoro, di Manuela Longo, Morellini Editore. Datevi da fare, io ho già dato. A domani. Grazie Gianluca, a domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22. Melog 2.0.